fatto il primo della classe. Un ignorante fuori classe. Prego Dio da queste casse. Come se m'ascoltasse. Benedici questi sognatori senza un euro in tasca, wifi. Quando ti svegli e non pensi ai soldi, vuole dire che li fai più dalla SNAI. È questione di etica, questi che pensano solo all'estetica. Qui non ci sono punizioni per chi sbaglia, non ci sono premi per chi merita. Il talento è un carcere a vita, una bella tipa, sì, ma senza la fica. In più in Italia dove nascono figli già vecchi coi padre l'antica. E allora stica, trova ciò che ami e lascia che ti uccida. Domani vai sicuro come sempre. A scuola se ti chiedono il futuro dov'è, digli presente. Volevo fare il batterista, suonare con un gruppo rock, meglio che fare il giornalista. Pensare sia un lavoro, scrivere su Rolling Stone. Potrei suonare il pianoforte, vivere in una cabriolet. Una canzone non salverà il mondo, ma so che può salvare te. E volevo sfrecciare su una cabriolet, col vento in faccia e coi soldi in tasca. A 200 all'ora mi sono accorto che anche arrivare primo ormai nemmeno mi basta. Eppure chi mi odia ora mi stringe la mano. Scrivo un'altra strofa corta, un altro disco di platino. Sto rapper fa bau, la sua tipa miau. Io invece quando entro spacco, esco, ciao. Volevo fare il batterista, suonare con un gruppo rock, meglio che fare il giornalista. Pensare sia lavoro, scrivere su Rolling Stone. Potrei suonare il pianoforte, vivere in una cabriolet. Una canzone non salverà il mondo, ma so che può salvare te. Volevo fare il batterista,